Terra in vista. La bontà spiegata a mio figlio. Ben ritrovati a Terra in Vista. In queste feste natalizie abbiamo fatto scorpacciate di parole difficili, parole con cui abbiamo raccontato il 2016, abbiamo provato ad immaginare il 2017, ora siamo di nuovo qui, ultimo giorno di queste vacanze e non siamo ancora stanchi. Io sono Federico Taddia, al mio fianco come sempre il filosofo della scienza Telmo Pievani. Ciao Telmo. Ciao Federico. Allora, raccontare le cose ai bambini significa spesso raccontarle anche ai grandi e forse capirle meglio. E allora chiudiamo la programmazione natalizia con una parola importante, una parola grande: bontà. Ma come si fa a parlare di bontà senza essere buonisti? Lo capiremo in questa puntata, ma partiamo proprio dalle voci dei più piccoli e dalla loro idea di bontà. Secondo me essere buoni significa essere gentili e essere generosi con il prossimo. Secondo me essere buoni significa non arrabbiarsi con nessuno e picchiare nessuno. Per me la persona più buona del mondo è papà. Sono buona quando faccio la brava con mia sorella. Sono cattiva quando mi arrabbio con mia sorella senza motivo. Essere gentili, per esempio, quando aiuti qualcuno. E invece, quando sei cattivo, quando picchi qualcuno oppure lo insulti. Io sono brava quando aiuto la mamma a stendere. Secondo me la più cattiva del mondo è una mia compagna di classe. Essere buoni vuol dire essere altruista con gli altri e fare delle cose buone. Ad esempio, aiutare chi è in difficoltà. Aiutare chi è in difficoltà mentre essere cattivi, insultarli senza nessun motivo. Beh, l'idea di essere altruisti con gli altri è bella, perché insomma credo che racchiude tanto dell'essere buoni. Tra l'altro abbiamo scoperto qual è la persona più buona del mondo e anche la più cattiva del mondo in questo minuto, esatto, di intervista. Abbiamo entrambe le categorie. Gli estremi. Telmo, cos'è la bontà? Sai che non è facile, perché dovrebbe essere la capacità di fare del bene per gli altri. Quindi in effetti i bambini sono stati bravissimi come sempre, che vuol dire generosità, come hanno detto. Aggiungerei comprensione, altrimenti non riesci a farlo, e quindi ci vuole una buona dose di empatia. Però devi anche essere efficace, cioè devi essere capace di essere buono, perché a volte per essere davvero buoni bisogna essere anche duri, fermi, per esempio in campo educativo. Quindi è difficile, è sfaccettata. Uomo e animali, c'è lo stesso concetto di bontà? Si è evoluta la bontà nel tempo? Ma sai che questo è difficile da spiegare, perché in effetti facciamo fatica a capire come l'altruismo si è sviluppato in natura, perché la selezione naturale si basa sull'egoismo individuale, si basa sulla competizione, e infatti Darwin era in grande difficoltà nello spiegare l'altruismo, che pure però è molto diffuso in natura. In natura abbiamo visto esempi, vediamo esempi di solidarietà, di cooperazione bellissimi, cioè animali che rinunciano ai propri interessi, addirittura a volte rinunciano anche a riprodursi, come capita alle formiche, le api operaie, eppure è un comportamento che evidentemente ha avuto i suoi vantaggi. Pensa che in natura sono stati visti animali che ne soccorrono degli altri, che provano sofferenza per il dolore degli altri, che cooperano. E diciamo, le due risposte che noi pensiamo siano le più possibili, plausibili, sono nell'evoluzione. Una è che, questi sono i pessimisti, che l'altruismo sia sempre una forma indiretta di egoismo. Cioè, io sono altruista, coopero con gli altri, ma perché alla fine ne ho comunque un vantaggio. Pensa per esempio alle leonesse che cacciano in gruppo. Loro sembrano buone, solidali l'une con le altre, ma in realtà sanno che cacciando in gruppo avranno molta più carne da mangiare. Oppure sono solidale, ma perché in realtà favorisco i miei parenti e quindi favorisco la mia famiglia, quindi coloro che condividono i miei stessi geni. Però secondo Darwin invece una spiegazione poteva anche essere diversa, cioè io sono buono, sono altruista perché rinuncio al mio egoismo a favore del gruppo, della comunità, perché io so che un gruppo forte e coeso che mi sta attorno alla fine mi proteggerà, e quindi questo forse è il vero motivo per cui è nata l'altruismo. Poi in noi, in Homo sapiens, ovviamente c'è il giudizio morale, e quindi noi ci ragioniamo su e noi sappiamo che dobbiamo fare il bene perché è giusto così in generale. Oggi andremo a conoscere diverse facce della bontà, come sempre, con tanti ospiti che si metteranno in gioco per raccontare, per spiegare il tutto ai più piccoli. Però abbiamo scelto di aprire invitando uno scrittore per ragazzi, quindi uno abituato a giocare con le parole, proprio per mettere nelle sue mani questa parola che è il cuore della puntata e capire cosa se ne fa. Diamo il benvenuto ad Andrea Valente. Ciao Andrea. Grazie, ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, cosa succede a uno scrittore che si trova tra le mani la parola bontà? Ah, guarda, un non scrittore quando pensa alla bontà, almeno io penso a un panino con il prosciutto, però so che non è questo il tema. Quindi uno scrittore quando pensa alla bontà, secondo me, almeno nel mio caso, pensa al suo contrario. Pensa alla cattiveria o addirittura alla perfidia, che è molto ma molto più divertente da raccontare. Preferisco molto di più la regina cattiva che non Biancaneve, per dire. E tu tra l'altro sei l'autore, l'ideatore della Pecora Nera, un grande protagonista dei libri per l'infanzia. Chi è la Pecora Nera? Ah, la Pecora Nera è un personaggio che ormai ha i suoi anni e non è un personaggio cattivo, non è neanche buono, è semplicemente una persona come tutti che porta con sé sia l'una che l'altra parte. Ma ti svelo questo segreto: è nato da un disegno ed è nato impiccando Lupo Alberto, o un lupo azzurrognolo, perché proprio non potevo disegnare lui, e per un biglietto d'auguri. Siccome Lupo Alberto nel biglietto d'auguri è il più importante personaggio italiano, io semplicemente l'ho ucciso per chiedergli un po' di spazio, e mi hanno chiesto di dire: ma già che il lupo è morto, mettici un altro animale. E quindi l'opposto del lupo è una pecora, ed è nata in una sorta di rito voodoo cattivissimo il mio personaggio. Quindi la bontà per me è proprio il suo opposto. Anche perché comunque ci sono le favole, le storie, Telmo, aiutano a trasportare questi concetti. Sto pensando a Pinocchio, per esempio, no? Il burattino più famoso del mondo. È buono o cattivo? Beh, questo è il paradosso, diceva Andrea adesso. La bontà è difficilissima da raccontare, e forse ha ragione Andrea, è anche noiosa, e allora devi giocare sul contrasto, devi invertire i giochi, e allora poi per differenza può emergere qualcosa che assomiglia alla bontà. Andrea, il tuo ultimo libro si intitola Favole dell'ultimo minuto, edito da Lapis, favole però non tutte a lieto fine, quindi una buona storia non è sempre una storia buona. Altro che no, questo libro è nato mentre riscrivevo per un altro editore le favole di Esopo, e che sono tutte cattivissime. Cioè Esopo è perfido molto più di me e di quello che io racconto, quindi scrivendo le sue storie ho pensato ad alcune mie, e devo dire le più divertenti anche da leggere con i ragazzi sono quelle in cui la fine non è proprio un lieto fine. Non esiste il vissero felice e contenti nelle favole, quelle sono le fiabe, quelle sono un'altra cosa. Invece le favole ti fanno pensare proprio perché qualcuno rimane impigliato. La bontà spiegata a mio figlio, da uno scrittore. Lui è Andrea Valente. Andrea, grazie davvero e buon Natale. Grazie a voi e buon Natale. Ciao, presto. Adesso una filastrocca, Giro tondo di Maria Loretta Giraldo, poi ancora qua con Terra in vista. Giro tondo. Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore, e poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere. Aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti. Bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E quell'abbraccio, grande e rotondo, teneva in piedi l'intero mondo. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Terra in vista. La bontà spiegata a mio figlio, questa è la sfida di questa puntata di Terra in vista, e lo sapete, cerchiamo di dare risposte ai quesiti dei bambini come questo. Perché a Natale siamo tutti più buoni? Eh sì, a Natale siamo o ci chiedono di essere tutti più buoni, ma perché? Bella domanda, e quindi cerchiamo anche una bella risposta, e per farlo abbiamo invitato padre Enzo Bianchi, priore del monastero di Bose. Benvenuto a Terra in Vista, padre. Benvenuto. Benvenuti a tutti. Allora, perché a Natale siamo tutti più buoni? Ed è vero soprattutto che a Natale siamo tutti più buoni? Ma con ogni probabilità si possono dare diverse risposte anche teoriche. Io, osservando un pochettino le persone, ho l'impressione che siccome Natale è la festa che quando veniamo al mondo da bambini è la festa più grande dell'anno, qualcosa ci resta di allora, e ogni volta che viene Natale si risveglia in noi il bambino con i sogni, la bontà, il desiderio di un clima di pace come tutti i bambini hanno. E allora forse questo bambino che è restato in noi, che si risveglia a Natale, ci chiede qualcosa, e qualcosa di essere più buoni, e quindi in qualche misura si accende in noi la generosità, la pazienza. Penso che sia questo. Tra l'altro stavo pensando che ai bambini viene chiesto di essere buoni, ma c'è qualcuno che insegna ai bambini cosa significa essere buoni? Questo è un problema più grave, perché oggi la trasmissione della bontà è diventata anche più difficile, perché molti hanno smesso di insegnare qualcosa ai bambini, pensano che i bambini imparino da altre fonti, perché le parole sono tante, e quindi c'è una demissione rispetto all'insegnare a un bambino l'essere buono, il rispetto dell'altro, il senso della curiosità, il non aver paura di chi è differente. Ecco, io temo che questo oggi venga un po' a mancare, e quindi qualche volta non permettiamo ai bambini neanche di sognare quella bontà di cui sono capaci. Ma noi, io ho una curiosità, perché adesso facevamo riferimento all'infanzia, quindi al legame molto profondo tra il Natale e i bambini, e sono molto d'accordo, penso che sia legato proprio a questo. Noi sappiamo che abbiamo molti dati che dicono che i bambini sanno apprezzare, soprattutto se sono piccoli, la diversità, sanno mettersi d'accordo, e poi molti pedagogisti dicono che poi succede invece qualcosa dopo, quando diventano più grandi e tutto diventa più difficile, si creano delle barriere che prima non c'erano. Dalla sua esperienza, cosa succede dopo? Il bambino certamente appena viene al mondo ha un senso di libertà, di freschezza, non vede le differenze, non vede le barriere, perché questo è quello che c'è in ciascuno di noi, nella meraviglia di vedere al mondo. Però poi il bambino cresce in un'atmosfera, in un clima, sente cosa dicono i genitori, cosa si dice in famiglia, e anche se lui non ha la capacità ancora di reagire verbalmente, queste cose si sedimentano in lui, e quindi quell'egoismo che viene iniettato da molte parole o da molte azioni finisce per entrare in un bambino che egoista non è, se non per il cibo. È l'unico egoismo che conosce il bambino. Padre Bianchi, visto che ha citato il cibo, io ho una domanda per lei. Ma un cibo buono aiuta ad essere più buoni? Assolutamente sì, soprattutto se si è consapevoli di quello che si mangia, se ci si esercita a conoscere quando è che un cibo è buono, perché un cibo buono è anche un cibo condiviso, è un cibo giusto, oserei dire, ed è un cibo anche bello. Ecco, queste tre cose nel cibo ci danno la possibilità poi di vivere meglio. Io ho questa curiosità, come la interpreta lei l'idea di convivialità? Guardi, convivialità, come dice la parola, non è tanto mangiare insieme, ma vivere insieme. però è vero che vivere insieme è il momento, oserei dire, più celebrativo, più festoso, è quello del mangiare insieme. E un pasto è quello che fa vedere i nostri rapporti, le nostre capacità di comunicazione, la nostra attenzione all'altro. Oppure un pasto fa vedere anche sovente come l'uomo può decadere e diventare qualcosa di estremamente, oserei dire, poco dignitoso, lo sappiamo tutti. Per cui il pasto rivela quel che è, rivela la convivialità nel senso più forte, l'arte del vivere insieme. E questa è la bontà spiegata a mio figlio da un padre, padre Enzo Bianchi. Grazie davvero per essere stato con noi a Terra in Vista e buon Natale. Buon Natale a tutti. Grazie, a presto. Terra in Vista. E dopo le parole di padre Enzo Bianchi andiamo un po' a giocare in maniera artistica e non solo con la bontà. Lo facciamo con Alessandra Falconi, responsabile del centro Alberto Manzi di Bologna e curatrice del blog disegnangolo.it che abbiamo già conosciuto quest'estate. Ciao Alessandra, buone feste e ben ritrovata. Tanti auguri anche a voi. Ciao Alessandra, eccoci. Allora, ti abbiamo chiesto di aiutarci a giocare con queste due parole, che sono parole importanti, la bontà e il futuro, chiedendo aiuto al maestro Alberto Manzi, che tu hai studiato e ben conosci. Cosa ci proponi oggi? Vi propongo un giornalino del 1979, perché questo maestro così eclettico aveva tempo per lavorare a scuola con i suoi bambini, per fare TV, fare radio, che amava tantissimo, e scriveva giornali, giornalini e libri di divulgazione scientifica per i bambini. Quindi facendomi un po' guidare da questa parola difficile, bontà, perché Manzi era un maestro che non era mica tanto per il buonismo, lui la tua fatica te la faceva fare tutta e l'aiuto arrivava dopo che tu avevi messo tutto quello che potevi nel raggiungere l'obiettivo. E quindi sfogliando i suoi materiali, sempre molto suggestivi e belli, ho trovato questo scambio dei suoi bambini che parlano di disabilità. Sì. E mi è piaciuto molto perché ci fanno vedere come la bontà a volte sia qualcosa di molto diverso dal pietismo, abbia molto coraggio, sia molto onesta. E questi bambini discutono fra di loro e ad un certo punto Elisa dice al maestro: ci chiedi se gli handicappati sono accettati veramente nella scuola. Era il 1979, quindi teniamo presente, Fede, che anche il linguaggio un po' risentiva della cultura dell'epoca. Diciamo che i ragazzi li accettano senza porsi tanti problemi, sono i grandi che complicano le cose. I genitori, dice Cristina, da prima dicono: oh poverino, vai da lui, aiutalo, giocaci. E Andrea dice: gli handicappati di qualsiasi tipo sono accettati fino a che non disturbano, e questa è la legge dei grandi. Secondo i genitori devono essere aiutati, però devono essere aiutati nella classe accanto, non nella classe dei loro figli. E mi colpiva molto questa riflessione perché, come sempre, la lucidità dei bambini, che invece sanno mettersi in gioco nelle relazioni anche quelle difficili, perché poi il dibattito andrà avanti e Andrea dirà al maestro: ma maestro, il problema è che noi non sappiamo bene che cosa fare e ognuno di noi può essere handicappato, tu ad esempio non ti senti mai handicappato dentro. E quindi ecco, insomma, così spunti, mi piaceva proporvi questo scambio fra i bambini. Scambio profondo che può essere anche riproposto o a scuola o in famiglia? Io penso di sì, perché il tema è estremamente di attualità. Quando parliamo di diversità, di ogni tipo di diversità, in realtà parliamo dell'originalità di ognuno di noi, del nostro diritto a diventare le persone che vorremmo, con potenzialità e limiti che abbiamo. E sarebbe bello se a scuola e in famiglia avessimo tempo per capire che il limite non è qualcosa che ci frena, non è un impedimento, ma è, se vogliamo, la staffetta staffetta che ci permette di saltare l'ostacolo. Quindi guardiamo bene quello che non sappiamo fare, perché forse scopriamo meglio quello che sappiamo fare e riusciamo a trovare nuove idee, nuovi modi per superare le cose, per affrontarle. Questa storia, Alessandra, conferma un fenomeno che è noto da tempo, cioè che la diversità viene percepita in modo naturale dai bambini piccoli, e più si cresce più nascono le barriere, e il che non è tanto bello, però dimostra che in realtà l'educazione e la cultura possono fare tantissimo, no? Sì, assolutamente, soprattutto quando bravi maestri riescono davvero a valorizzare tutte le diversità dei bambini, e quindi non ci si sente nel dovere di omologarsi anche solo alle aspettative dell'insegnante. Quindi la prima diversità, quella che ti fa stare male, a volte è la diversità nel sentire che il papà, la mamma o l'insegnante vorrebbero qualcosa che tu non sei, sei diverso da come in qualche modo senti di essere sognato. E invece diamo il diritto ad ogni bambino di essere sognato prima di tutto per le sue debolezze, per le sue fragilità. Grazie davvero, Alessandra. Tanti auguri. A presto. Adesso una filastrocca, un dono speciale di Roberto Piumini, la pubblicità, poi ancora qua, con Terra in Vista. Un dono speciale. Quest'anno Natale mi ha fatto un bel dono. Un dono speciale. Mi ha dato allegria. Canzoni cantate in gran compagnia. Mi ha dato pensieri, parole, sorrisi di amici sinceri. Dei vecchi regali non voglio più niente. Ad ogni Natale io voglio la gente. Sono Giugia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giugia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Terra in vista. Terra in vista, la bontà, Federico Taddia e Telmo Pievani, ma soprattutto i nostri ospiti e ancor prima i nostri bambini con le loro domande. Sentiamo la prossima. Ma è più facile fare la pace o fare la guerra? Una domanda semplice, diretta, secca, che però appunto racchiude tutto. Già, però qua ci si divide tra ottimisti e pessimisti. Oppure, vediamo la scienza cosa dice. Oppure realisti, esatto. Diamole il benvenuto al nostro ospite, lui è un esperto di pace più che di guerra. Diamo il benvenuto a Daniele Novara, pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti di Piacenza. Ciao Daniele, benvenuto e buon Natale. Ciao. Ciao Federico, ciao Telmo, saluti a tutti, anche ai bambini che ci seguono. Allora, è più facile fare la pace o è più facile fare la guerra? Ma la risposta è assolutamente scontata, è più facile fare la pace. Fortunatamente noi viviamo in un contesto di pace, i paesi ricchi vivono da secoli nella pace e la nostra tendenza è quella prevalentemente cooperativa, anche se l'aggressività c'è, ma come istinto vitale e non come istinto di guerra. E senz'altro i bambini hanno molto molto da insegnarci, perché anche sulla base delle mie ricerche e del metodo che poi sto portando nelle scuole italiane e non solo, abbiamo scoperto che i bambini hanno una capacità di accordo nei loro litigi, nelle loro controversie straordinarie, addirittura già dall'asilo nido, non solo, direi di più che gli italiani sono fra i più bravi al mondo in questo, proprio i bambini italiani, e quindi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che i nostri cuccioli hanno questa straordinaria capacità. Le ricerche ci dicono che addirittura se gli adulti non intervengono nei loro litigi entro un minuto, i bambini si accordano tranquillamente tra di loro. Ah, quindi gli italiani, vedi, i bambini italiani litigano bene, questo non l'avrei mai detto pensando ai litigi che vediamo costantemente ritualizzati in televisione, però da quello che stai dicendo... Non è che bisogna smettere di litigare, no? Bisogna sapere litigare, cioè gestire il conflitto. bisogna imparare a litigare bene, perché purtroppo le interferenze, diciamo così, culturali, un po' della tradizione e varie componenti anche mediatiche spingono, no, verso così un versante del farsi giustizia, farsi vendetta, no, tirare addosso agli altri tutte le nostre rabbie e quant'altro. Se invece seguiamo con tranquillità la nostra natura e come adulti, stavolta parlo agli adulti, aiutiamo i bambini a parlarsi, ecco, a darsi le loro versioni, a tirar fuori le loro ragioni. Noi abbiamo inventato un metodo che penso davvero bello e che anche penso anche un'eccellenza italiana, cioè il metodo litigare bene, che ha anche il conflict corner, dove i bambini già da piccoli vanno a litigare addirittura da soli. Ci sono delle scuole dell'infanzia che hanno adottato questo mio metodo, dove ci sono i bambini in coda per andare a litigare nell'angolo dei bisticci. È una situazione bellissima, dobbiamo imparare da loro noi adulti. Intanto diamo il sito del centro, che è www.cppp.it, per avere, esatto, tutte le informazioni, perché insomma questa scuola di litigio, adesso lo sto banalizzando nel nome, però dà molto l'idea del significato e del concetto di conflitto. E Daniele, un'ultima domanda, perché sai, è vero, è più facile fare la pace, poi vediamo un sacco di guerre, ci sono tantissime nazioni dove i bambini non hanno mai vista la pace, sono nati e cresciuti nella guerra. Esatto. Un elemento, un'informazione che la cultura, diciamo, mediatica sottovaluta, che dove c'è nel mondo la guerra, lo diceva già Maria Montessori, ci sono educazioni oppressive, mortificanti. Ecco, la mortificazione infantile genera una rabbia tale nelle persone che poi la devono scaricare in maniera sbagliata. Anche su questo abbiamo fatto tante ricerche. Si crea la cosiddetta carenza conflittuale, che in qualche modo crea le condizioni perché ce la prendiamo con gli altri, cerchiamo di fare del male agli altri, e se non riusciamo a farlo agli altri lo facciamo noi stessi. Ma però tutto questo nasce da educazioni sbagliate. Anche in Italia dobbiamo smettere di sgridare i bambini, di urlare, di punirli inutilmente. Dobbiamo cercare il più possibile di seguire le grandi indicazioni dei pedagogisti, in primis Maria Montessori, il rispetto. Ecco, il rispetto viene prima di tutto. Si impara il rispetto vivendolo anzitutto nell'educazione che gli adulti danno ai bambini. Grazie davvero Daniele Novara. Grazie, saluti a tutti. Se verrà la guerra, Marcondi ronderò. Se verrà la guerra, Marcondi ronda. Parlare di guerra per parlare di bontà. Telmo, ma quando è nata la guerra? Questa è una bella domanda, non è facile, perché se tu guardi la natura è piena di contraddizioni, perché ci sono animali che fanno cose bellissime, sublimi, consonano lo sconfitto, soccorrono individui in difficoltà, e poi però vedi anche esempi di aggressività, di violenza, addirittura di infanticidio. Quindi la natura è ambivalente, non dobbiamo stabilire se è buona o cattiva. Però una cosa è sicura, la guerra come la facciamo noi non la fa nessun animale, nel senso della guerra pianificata, con gli eserciti, con le armi, con tecnologie distruttive. Quella è una nostra pessima e unica invenzione, e presso poco sappiamo quando è nata, perché quando c'erano soltanto cacciatori e raccoglitori c'erano conflitti tra le tribù, i gruppi, però erano poca cosa, erano delle scaramucce. La guerra vera comincia quando devi difendere un territorio, quindi comincia quando nasce la proprietà privata, con l'invenzione dell'agricoltura, con la necessità di possedere, di espandere un territorio a scapito degli altri, e quando poi hai la possibilità di mantenere intere classi di individui che non producono il cibo, come i soldati e i burocrati. Dopo molto tempo, quindi vedi che è un'invenzione recente, quindi è vero che non può esserci un istinto a fare la guerra che si sia radicato nei milioni di anni, è un'invenzione nostra recente, che poi è diventata uno strumento di dominio e di relazioni internazionali. Però, se ci pensi bene, nella storia è rarissimo che una guerra abbia davvero risolto una volta per tutte un conflitto, perché i conflitti si risolvono eliminando alla radice prima le loro cause profonde. Quindi la guerra non è mai una buona soluzione, come c'è scritto peraltro nella nostra Costituzione, che non è un modo per risolvere i conflitti. Sembra la via più facile, ma è un alibi perché non si ha la forza e il coraggio, appunto, di intraprendere altre strade che ci sono. Adesso è il momento invece dei consigli di lettura, libri che parlano di bontà. Terra in vista. Consigli di lettura a tema bontà. Abbiamo convocato un'esperta. C'è con noi Teresa Porcella, editor e libraia per ragazzi, la libreria è la Cucumeo di Firenze, e tra l'altro anche la curatrice della collana di poesia Il suono della conchiglia, che ha vinto il premio Andersen. Ciao Teresa, benvenuta e buone feste. E complimenti. Ciao a tutti e bentrovati, grazie. Allora, non so se la bontà come parola sia una parola amata o forse abusata anche nella letteratura per l'infanzia. È stato facile scegliere tre titoli adatti? Allora, è stato facile perché ce n'è uno che io considero un caposaldo della letteratura mondiale, non solo per ragazzi, che è Il narratore, la fiaba di Saki. È considerato uno dei più grandi narratori al mondo di novelle, ed è stato il maestro di Roald Dahl, quindi Roald Dahl gli deve moltissimo. Il narratore di favole, o Il narratore, lo trovate in due edizioni, una è Orecchia Acerbo, con le bellissime illustrazioni di Michele Ferri. È una meravigliosa storia in cui la bontà è punita e non è premiata, e quindi è la mia favola preferita. bello, un approccio divergente alla bontà. Alla rovescia. Esatto. Secondo titolo, esatto. Invece? Secondo titolo è un titolo a cui sono molto affezionata. È una stagione in cui siamo tutti un po' raffreddati, e allora in una stagione in cui siamo raffreddati, Il raffreddore di Amos Perbacco, di Erin e Philip Stead, edito da Baba Libri, è una storia molto bella. Amos Perbacco lavora allo zoo e fa di tutto per i suoi animali, gioca a scacchi, li fa correre, gli fa compagnia. Succede che quando si ammala Amos, gli viene il raffreddore, tutti gli animali vanno a trovarlo a casa, mentre lui a letto fanno a lui quello che lui fa agli animali quando stanno allo zoo, e quindi gli fanno compagnia aiutandolo in qualche modo. Quindi invece questo è un caso di bontà, diciamo così, premiata, però premiata in maniera inaspettata dagli animali di uno zoo. Bello. Terzo titolo invece da segnarci in agenda? Il terzo titolo, Il Gribizzo. Questi sono di Bruno Tognolini, le illustrazioni di Giulio Recchio, l'editore Motta Junior, e anche questa è una storia che io adoro. C'è un bimbo a cui ogni volta salta il gribizzo di fare qualcosa, di saltare, di combinare qualche guaio. E la mamma ha terrore di questo ghiribizzo perché gli crea qualche problema nella gestione familiare, e quindi dice: non ti sarà saltato il ghiribizzo di fare questo, di fare quest'altro, finché il ghiribizzo, che qui viene personificato, si offende e decide di andarsene e di lasciare tutti quanti. Come il ghiribizzo se ne vanno anche i ghiribizzi di tutti gli altri bambini. Il risultato è che, mentre prima avevamo dei disegni coloratissimi, il mondo dei bambini e degli adulti senza ghiribizzi diventa grigio, diventa cupo, diventa noioso, finché la mamma di questo bimbo si rende conto che ha tolto in qualche modo la fantasia, sì, a questo bambino. Va nel paese dei ghiribizzi e chiede al ghiribizzo di tornare. Per tornare, il ghiribizzo gli porrà una condizione, non dico quale se non faccio spoiler totale del libro, però diciamo che la cosa bella è che si scopre che per essere buoni bisogna essere anche un pochino indisciplinati. Un po' imprevedibili, diciamo. Ecco. Direi di sì. Ciao Teresa, buone feste. Ciao a voi, auguri a tutti. A presto. Adesso una filastrocca. Dopo La pioggia di Gianni Rodari, Il traffico, poi ancora qua, con Terra in vista. Dopo la pioggia. Dopo la pioggia viene il sereno. Brilla in cielo l'arcobaleno. È come un ponte imbandierato e il sole vi passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu. Però lo si vede, e questo è il male, soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente? Un arcobaleno senza tempesta. Questa sì che sarebbe una festa. Sarebbe una festa per tutta la terra. Fare la pace prima della guerra. Terra in vista. Terra in vista, si parla di bontà. Andiamo a scoprire qual è la terza domanda posta dai più piccoli. Chi sono stati gli uomini e le donne più buone della storia? È il momento delle classifiche, che è sempre un momento importante. Tiremo, tra l'altro, questa cosa, gli uomini e le donne buoni, cioè, sono fondamentali perché magari sono un buon esempio. È contagiosa la bontà. Sarebbe bello, ma forse è così. Forse è un po' come gli sbadigli, presenti, no? Che quando sbadigliano gli altri, anche noi sbadigliamo perché è contagioso. Però in fondo, quando gli altri soffrono, soffriamo un po' anche noi nel vederli. Forse c'è una spiegazione scientifica, che tra l'altro è un orgoglio italiano, perché è una scoperta italiana, sono i famosissimi neuroni specchio. È una scoperta bella perché tu vedi che nel nostro cervello, quando tu fai un'azione, per esempio afferri un bicchiere, si attivano certe parti del cervello, si attivano le stesse parti quando tu vedi qualcun altro che compie quell'azione. Quindi quando tu osservi è come se stessi in qualche modo ripetendo o incarnando quello che stai osservando, quindi tu sai quello che fa l'altro perché risuona in qualche modo nel tuo cervello. E se vedi l'altro, per esempio, che sta facendo un movimento e poi c'è uno schermo che lo copre, tu lo interpreti, quindi sai capire anche le intenzioni dell'altro. E poi si è scoperto che questi neuroni che risuonano valgono anche per le emozioni, per il disgusto, per la paura, che tu vedi nell'espressione del volto dell'altro e in qualche modo lo vivi anche tu. Qualcuno li ha chiamati i neuroni dell'empatia, che creano una sorta di simulazione incarnata dentro il nostro cervello. Il messaggio, secondo me, di questa contagiosità è il fatto che è chiaro che il nostro cervello è relazionale, cioè noi siamo una specie sociale, ci siamo evoluti nelle dinamiche sociali e questi neuroni specchio ci fanno orientare molto meglio nelle relazioni con gli altri. Quindi direi di sì, che la bontà può essere contagiosa. Insomma, siamo fatti per stare in classe, per stare insieme a un gruppo, per stare con i compagni di banco. Lo sa bene il prossimo ospite, perché mi sono chiesto chi meglio di un insegnante può parlare di uomini e donne buoni della storia. E quindi abbiamo convocato qui a Terra in Vista un insegnante. Diamo il benvenuto ad Alex Corlazzoli, maestro elementare e giornalista. Ciao Alex. Benvenuto. Presente come si dice a scuola. Ciao Telmo, ciao Fede. Tra l'altro un buon maestro, quindi ritorna la parola buona, vedi? Allora Alex, ti ho chiesto di fare una selezione, perché insomma sono tanti per fortuna gli uomini e le donne buoni della storia. Però se appunto i tuoi alunni ti chiedessero, maestro, dai, la top 5 degli uomini e delle donne più buoni della storia, qual è la tua top 5? Ma io prima di tutto metto un bambino proprio tra gli uomini più buoni della storia, e quando racconto di questo bambino ai miei ragazzi dico sempre: voi ce l'avete un tappeto? E quando loro mi guardano un po' straniti, maestro, ma che dici, un tappeto, che c'entra il tappeto? Perché a loro parlo sempre di Iqbal Masih, ve lo ricordate, quel ragazzino pakistano che è morto il 16 aprile del 1995 a soli 12 anni, a 4 anni era stato venduto dal padre per pagare un debito, venduto a un fabbricante di tappeti, costretto a lavorare 10-12 ore al giorno. Questo bambino è riuscito a scappare da una fabbrica e a diventare un simbolo della lotta, soprattutto per difendere tutti quei bambini che erano sfruttati, pagati e venduti da magari dai loro genitori, proprio per una situazione terribile. Un buono come lui, veramente morto tra l'altro in una circostanza terribile, insomma in un giorno di Pasqua, veramente Iqbal Masih è il simbolo di tutti i bambini buoni. Lo metto sicuramente al primo posto lui. Bello, una bellissima, una bruttissima storia, ma anche bellissima perché appunto virtuosa e significativa. Il secondo personaggio invece che vuoi proporre ai nostri ascoltatori? Guarda, è Julia Hill, che invece c'è ancora, insomma, ancora viva, parliamo anche dei vivi, insomma, buoni, ed è straordinaria, secondo me, soprattutto quando lo racconto ai bambini, perché per salvare una sequoia alta 70 metri, questa donna ambientalista è stata su un albero per 2 anni in Colorado per salvare questa sequoia. La volevano tagliare, una multinazionale della legna voleva far fuori questo albero insieme a tanti altri, lei ha passato 738 giorni sui rami ed è riuscita a salvare la sequoia. Lo racconto perché i buoni non sono solo quelli, diciamo, i simboli, insomma, ma sono quelli di tutti i giorni, sono quelli che anche noi possiamo essere in qualche modo, ciascuno di noi buono. Giulia ci dà l'esempio che ognuno di noi può fare qualcosa per essere più buono, stare sull'albero per esempio, salvare veramente il nostro ambiente, insomma, no? Che ne dite? Per esempio sarebbe bello che ci mettiamo anche noi tre su qualche albero a salvare, a salvare l'ambiente, così siete più buoni magari, insomma. O li abbracciamo, quindi il secondo posto, sì. Secondo posto la bontà ambientalista, e completiamo il podio, il terzo? Terzo Madre Teresa. Mi piace ricordare la figura di Madre Teresa ai ragazzi, perché forse noi siamo cresciuti in un'epoca in cui Madre Teresa c'era familiare, no? Era molto molto vicina ai nostri occhi, eccetera. E spesso però ci siamo dimenticati di questa suora che a Calcutta, tra l'altro la ricordo perché io sono stato a Calcutta, ho visto veramente quello che ha fatto questa suora con i miei occhi proprio, ho visto veramente anche tutte le sorelle che vivono con lei, persone dedicate totalmente 24 ore su 24 ore ai malati, soprattutto ai malati di lebbra, ma anche ad altri malati, in un posto veramente ai confini del mondo come è Calcutta. Chi è più buono di queste di questa suora e delle suore che con lei hanno vissuto questa esperienza? Ma si arrabbiava ogni tanto? Cioè i buoni si arrabbiano ogni tanto? Anche i buoni si arrabbiano, sì, mi viene in mente un altro buono che qualche volta si è arrabbiato invece, che è Paolo Borsellino. Paolo Borsellino qualche volta si è arrabbiato, era davvero buono Paolo, io l'ho conosciuto attraverso, lo metto infatti anche lui nella nostra classifica, me l'ho conosciuto attraverso le parole della sorella Rita Borsellino, che, a cui sono molto legato. Paolo era così buono che quando andava in carcere poi veniva a casa, stava male perché si chiedeva perché quel ragazzo che ho incontrato in carcere era quello che giocava a pallone con me al quartiere della calza, era quello che con me giocava a nascondino, oggi sta in carcere, io cosa ho fatto per rimediare? Ma però si arrabbiava Paolo, si arrabbiava quando sopportava certe mani che si allungavano verso di lui, mani false, si arrabbiava quando doveva vedere dei soprusi, e mi raccontano che veramente qualche volta si è arrabbiato, così come un altro buono eccezionale che metto nella classifica per stare sempre in Sicilia è 3P. Non so se è bello raccontarlo ai bambini così, 3P. Avete presente chi è 3P? No, chi è 3P? Padre Pino Puglisi. Lo chiamavano con 3P lì a Brancaccio. Di padre Pino Puglisi, per esempio, ricordiamo, lo faccio sempre vedere ai miei ragazzi in quel film magnifico Alla luce del sole di Roberto Faenza, dove esce questa straordinaria bontà di padre Pino, tra l'altro un santo, insomma, stiamo parlando di santi in questa trasmissione, insomma, il sorriso di quando lo vanno ad ammazzare, cioè arriva uno, gli punta la pistola, lo stanno per ammazzare, lui gli sorride in faccia e gli dice: sapevo che era arrivato il momento. Straordinario anche lui, veramente un uomo che è buono fino alla fine, che io non lo farei mai, non sarei mai capace di essere così buono da sorridere a chi mi sta uccidendo. Alex, grazie davvero per questa tua selezione, per questi tuoi 5 racconti, 5 storie, 5 uomini e donne che sono buoni, che comunque hanno qualcosa da dirci e da darci. Grazie a voi che mi avete reso più buono ascoltandovi. Ciao Alex, ciao. Ciao, ciao. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. È solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo la storia e le storie, le tante storie che abbiamo ascoltato in questa puntata. E questo è quello che abbiamo imparato. Che i bambini fanno la fila per imparare a litigare bene. Che i buoni non sono sempre solo buoni e i cattivi non sono sempre solo cattivi. che un cibo buono, se mangiato in compagnia, fa diventare più buoni. Che la bontà è contagiosa come gli sbadigli. Che anche i buoni, anche quelli davvero buoni, ogni tanto si arrabbiano. Terra in vista, la bontà spiegata a mio figlio termina qua questa puntata. Grazie davvero Telmo, come sempre. A te, a presto. E ringraziamo anche la nostra squadra, Silvia Righini che con noi ha scritto la puntata e Andrea Roccabella nella parte tecnica. Storia universale. In principio la Terra era tutta sbagliata. Renderla più abitabile fu una bella faticata. Per passare i fiumi non c'erano i ponti, non c'erano sentieri per salire sui monti. Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un panchetto. Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto. Per non pungerti i piedi, né scarpe né stivali. Se ci vedevi poco, non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c'erano palloni, mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni. Anzi, a guardare bene, mancava anche la pasta. Non c'era nulla di niente, zero via zero e basta. C'erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare, e agli errori più grossi si poté rimediare. Da correggere però ne restano ancora tanti. Rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti!